and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Ciao. Tu di che gruppo fai parte, Kappa? Chi? Di che gruppo fai parte? Ma chi? Ma cosa? Il gruppo, sei uno dei volenterosi o uno dei responsabili? Ma che roba è? Gruppi degli anni 60, tipo i ribelli, i giganti. I volenterosi cantavano una canzone. Siamo i volenterosi. I volontari, no? Anche. No vabbè, non sono gruppi rock quelli di cui parlavo io, ma sono gruppi parlamentari, capo, dai, non far finta di niente. Sì. Gruppi parlamentari con i nomi più stupidi che uno si appunto, possa immaginare. Cos'è? I volenterosi, sì. I responsabili. Ma sembrano i nomi di gruppi scout, ecco. Gruppi scout. Beh, certo, gli scout, sai, sono il massimo modello di riferimento per dei bambini politici italiani. Ecco, aveva cominciato anni fa con questa moda il bambino capezzone, il primo della classe, un po' così, con la tavola dei volenterosi. Cos'è? Il ristorante dove si mangia male, però ci mettono la buona volontà, quindi cuoco, sono volenterosi. Si dà da fare, però. È un cane, ma è volenteroso. Più o meno. Era in realtà un insieme di parlamentari, tra i quali Capezzone, Tabacci e Polito, che premevano per l'innovazione, le riforme economiche e sociali del governo Prodi, e si parla del lontano 2006-2007. Mai sentiti nominare, robe, no? Cosa sei andato a pescare, Drago? Ma questi gruppi parlamentari, in effetti, durano il tempo di convocare una bella conferenza stampa, poi nella realtà è come se non ci fossero, no? Fanno TG1, qua, basta. Siamo i volenterosi. Hanno quei due minuti di popolarità, Andy Warhol è contento e via. Comunque ora quei volenterosi lì non esistono più, però ne esistono altri, quelli guidati dal bambino Nucara. Da chi? Il bambino Nucara, il leader. Tito. Lo so, Tito. No, è così, ha ragione. Sono brutte cose, però è il leader del Partito Repubblicano. Quindi, insomma. Il Partito Repubblicano americano? No, è il Partito Repubblicano italiano. Ma perché esiste un Partito Repubblicano italiano? Certo, è quello dell'Edera, capo. Ma l'Edera l'hanno estirpata 20 anni fa, Drago. Sì, e tu vallo a dire a Nucara. Ma chi? Chi Nucara è? Nucara è il segretario dei radicali, il segretario dei repubblicani. Nucara ha messo su in un baleno un gruppo definito appunto i volenterosi per dare una mano al bambino premier e togliere i numeri a Futuro e Libertà. Hanno buona volontà e la dimostrano votando con la maggioranza. La maggioranza. La no. Volontà. No. E cosa ho detto? La dimostrano. Dimostrano. Mamma mia. E Tito però non è intervenuto. Ah, non è Tito, il parolacciometro, ti ho detto 10.000 euro. Sì. C'è anche per lo sbaglio e di anche vocale. Anche per Travaglio, se lo fanno a Travaglio, oltre a tutte le querele che deve pagare. No, la peggiore di tutti lo sappiamo chi è. Lo sappiamo, non è nemmeno torinese. No, è Triestina. È Triestina, la bambina Botteri, diciamolo. Sì, ma perché a Trieste fanno ancora più casino. Sì, Tito, sì, hai ragione, scusami. Non stiamo parlando di dizione, stiamo parlando di gruppi parlamentari. Sì. Allora, i responsabili sono altri, sono quelli del bambino Luciano Sardelli. Di chi? Luciano Sardelli, capo, cosa vuoi che ti dica? È così, sono 22 deputati guidati da Sardelli, sempre storti ai futuristi. Eh già, perché ci sono pure i futuristi. Eh sì, e adesso ci sono nuove nascite, sono state annunciate, è diventata una moda. Ci saranno presto i fatalisti di area centro-centro-sud, che sono quelli che votano come capita. Poi se va male, pazienza, no? Poi ci sono i coriacei, che sono di estrema sinistra. Qualunque cosa succeda, loro si chiudono a guscio e resistono. Ma senti, ma capitalismo, cosa ne dici dei disponibili? I disponibili? Dai, sono quelli a disposizione, no? Per eventuali passaggi improvvisi, ecco, io mi metto lì, cambi, rimpasti, senza i disponibili. Sì, è un bel provare a governare. No, non si può. No. Sappiate che sono comunque ancora liberi un sacco di domini per gruppi parlamentari, sì. Dagli invincibili, che è ideale per qualche esaltato proveniente dagli amici del sindaco Alemanno, sì. Fino ai trascurabili, consigliato per un gruppo parlamentare altamente autocosciente, così come gli incapaci e qua qua qua. Io penso che viviamo una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. La regressione politica, per forza. Abbiamo il ministro dell'infanzia, Meloni. Il ministro della gioventù. Ministro dell'infanzia adesso è diventato. Vabbè, ministro dell'infanzia Meloni, che si è messa in testa di fare un videogame dedicato al risorgimento. È no? giusto, scusa. Sì, Garibaldi è il protagonista ideale di un videogame. Sì, ma un infatti eroe, è bravo. È proprio lui, è proprio Garibaldi, l'eroe degli eroi di tutti i tempi, di Gioventù Ribelle, questo gioco inventato dalla Meloni. Insomma, Garibaldi deve sparare alle guardie pontificie, ne ammazza una e grida kill, se ne ammazza due e grida double kill. Ma come, in inglese? E per forza i videogay sono tutti internazionalisti, mica possono parlare in italiano. Ma poi ci sono anche i piemontesi, allora, che dicono avanti Savoia, quello è rimasto uguale. Magari, no, anche quello l'hanno tradotto. L'hanno tradotto anche quello. Sì, hanno tradotto Savoia. Sì, hanno tradotto Rampage. Ma Savoia vuol dire furore, loro assaltano dicendo furore, invece che vabbè, è così, non so, è il videogame. Ma scusa, l'unità d'Italia, il patriottismo, dov'è? Vabbè, non lo so, hanno tradotto anche Savoia, cioè, ho capito, ma fosse quello solo il problema. In pochissimi giorni, in realtà, Gioventù Ribelle è stato già definito da tutti gli esperti di videogame il peggior videogame della storia di tutti i videogame, dai forum specializzati, io qui cito senza saperne niente, NeoGAF e Destructoid. Ma cos'è? Però direi che possiamo chiedere a uno che ne sa, infatti. Così ne parla al posto nostro. Matteo Bordone, ci sei? Eccoci qua. Allora, che cos'è NeoGAF e Destructoid? Quello non, francamente non so cosa sia, però... Allora, è l'unico modo per recuperare questo gioco è questo, cioè trasformarlo in un caso, come il piano 9 dallo spazio di Ed Wood, il film definito più brutto della storia del cinema. Cioè, si ricorderà questa robina perché è stato comunicato come se fosse un grandissimo videogioco, in realtà è una mezza, se non totale, vaccata, e quindi fa ridere questo meccanismo per cui viene promosso in grande pompa come il gioco che celebra l'anniversario del risorgimento italiano, e forse il risorgimento italiano meritava qualcosa di diverso, tipo che il gioco fosse fatto in un paese dove si fanno i videogiochi, cioè non l'Italia. Senti, ma sembra uno stile questo della comunicazione del, diciamo, del governo, di fare del trash affinché se ne parli in quanto trash, e quindi almeno se ne parla, però che in realtà ma non è mica voluto. No. Quando hanno fatto il sito dell'Italia, con il logo inventato da Brambilla, dalla coppia Brambilla. A Picella anche, no? Non c'era anche Picella. No. C'era il logo dell'Italia, il primo era nero con la scritta Italia in oro. Sì, non Italy, c'era, no? C'era Italy. Sì, c'era anche Italy in oro. È cambiato in era Italia, una porcata sì. Che qualunque studente al primo anno di comunicazione avrebbe detto è uno schifo immondo. Vabbè, c'è una cosa curiosa anche nella cosa del bambino nell'ultima comunicazione, quella sull'Italia bellissima, a un certo punto hanno tagliato la frase dove dice il 50% delle opere artistiche dell'UNESCO, hanno tagliato la cosa dell'UNESCO, per cui dice in Italia ci sono il 50% delle opere artistiche, punto. Ma di cosa? Non si capisce di cosa. Vabbè, comunque... Finché non scopriamo altri pianeti è il 50%. Con le opere di Marte diventa molto meno. Comunque nei videogiochi, un po' come nelle automobili, tu puoi avere il pianale di un'altra macchina che vecchia magari, che botta, ma insomma che ormai non è più una novità, e su quello costruisci una macchina nuova, e quindi quello che si giudica è tutto quello che c'è in più. Qui il motore grafico è il motore di Unreal, che è un gioco storico, e l'uso di un motore, è tutto il meccanismo del gioco, è una cosa che si fa molto spesso, cioè non è che ognuno si riprogetti il gioco da zero. Certo. No? Basarsi su Unreal, Matteo, è una cosa che viene giudicata buona o cattiva? Ma no, guarda, basarsi su Unreal vuol dire che non hai grandissimi contenuti tecnici sul motore, ti stai basando su uno standard, quindi devi costruirci sopra qualcosa di molto bello. Se quello che costruisci sopra è una vaccata, come nel caso del videogioco risorgimentale, non solo, ma se il motore grafico non è stato modificato al punto che quando tu nell'Italia di 150 anni fa ammazzi due a fila si sente double kill, il double kill era una cosa che c'è nel motore di Unreal, ho capito, americano. È una specie di preset, cioè hanno usato quindi c'è una serie di preset che saltano fuori, poi c'è la modalità God, che è la modalità divina, quella che C'è la Papa, quella credo. È quella per cui tu non muori. Ma sarebbe un po' incontro. Ma lì, scusa, se c'è il Vaticano coinvolto, mi sa che quella ce l'aveva. In automatico parte la modalità God, per cui ti sparano tutte le guardie e tu non muori mai. Ma poi il gioco è proprio fatto male, ma è fatto male perché è stato comunicato come se fosse una grande produzione, e poi è un gioco italiano. Neanche un gioco italiano, è una specie di esperimento semi-amatoriale italiano fatto male con due lire. I videogiochi sono un prima, ma voglio dire. Però ci sono anche i parenti, i nipoti che fanno le start-up, magari bisogna fargli, dargli un po' di lavoro. Io dico che si potrà fare un bel gioco avendo un tono diverso da quello dell'istituzionale, perché il concetto di istituzionale legato al concetto di gioco insomma non sta insieme. Insomma, bisognava trovare un taglio, essere bravi. Ma non si è mai visto un governo, comunque un'istituzione che sta al passo coi tempi su queste cose qui, quindi insomma, ma infatti si sapeva già. Dovuto lasciar fare, dare un appoggio esterno e lasciar fare a qualcuno senza metterci troppo le mani, ma come si sa in Italia i quotidiani hanno 15 pagine di politica interna al giorno e quindi hanno dovuto dire facciamo tutto noi, è venuta una vacca. Smettila con le vaccate, Kappa. Anzi, mandate le vostre vaccate a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.